attacco subito, non è che aspetto 5-6 passaggi. Ottimo sempre per la truppa, e sono col baracchino io sempre. Ciao, stasera andando bene, 6:09:20, auguria. Ma io... Giuseppe, tu stai usando il coso, ovvero il Saturn Echo? No, negativo, adesso sono passato al Magnum. Tu l'avevi riparato quello lì, oppure cosa fa? Rimane nei 40 canali e basta. Cappa, solo questa banda e rimane nei 40. Per buttarlo mi sto accontentando di usarlo così, Massimiliano. Positivo. Vabbè, un peccato con la radio però, usarla così è un peccato veramente. Lo so, ma guarda, se mi torno indietro nel tempo, più ci penso più mi incazzo, quindi me la sto godendo così, guarda, perché da quando l'ho comprata si può dire che adesso me la sto godendo, solo su questa banda, perché non cercare di altre bande, perché non ce n'è per nessuno. Neanche l'FM funziona? Allora, in FM non lo so, non ci ho mai provato. Prova a passare in FM. E tu qua lo fai? Ma questa radio non l'hai fatta, già sono qua. Questo è un passaggio. E funziona anche bene. L'unica cosa che sono gli altri canali, A, B, C, D, E, F, G, H, oramai è puntata su questo e niente, non me l'ha detto chiaro e tondo Vittorio, accontentati di usarla così, per non uscire niente come non uscivo prima Massimiliano, e sì che ha girato per tutta l'Italia questa radio. Positivo, io se vuoi ti posso fare un tentativo da un amico a Perugia. Vediamo un po' questo che cosa ci può dire Massimiliano, però io con molta tranquillità ti posso dire che speranze non ne ho più. Ascolta, dimmi proprio esattamente cos'è che non ti va lì, i canali, giusto? Cioè ti funziona solo la 27, basta? Solo la 27. In pratica questa radio, che cosa è successo? Io la sera ho modulato, l'indomani mattina se ne andavano i canali per conto loro, lo smitter camminava tutto per i fatti suoi. Il frequentimetro continuava a andare senza fermarsi, giusto? E quindi, però adesso com'è? Il frequentimetro adesso è fermo. Sì, adesso è fermo, io adesso sono sul canale 12, perlomeno il coso mi dà canale 12, però non chiedermi che canale siamo adesso. 27.105, a che canale corrisponde? Perché a me qui nell'apparecchio mi dà canale 12. Siamo nel canale 12. Siamo nel 12, bene. Va bene, perché ad esempio per il 10 deve andare sul 9, se non mi ricordo male. Sono sfasati anche un po' i canali. Vabbè, dopo li faccio uno squillo, vediamo un po' cosa mi dice, là. Se mandargli alla... Non so, però questo me lo devi dire tu. Certo. Se questo mi dà qualche spiraglio, sì, se no ciccia, la facciamo camminare così e via. Non è che si possa andare in tanti altri posti, mi Massimiliano. Poi ti ripeto, è stata più fuori questa radio che con me. Vabbè, io sono sicuro che Luca te la mette a posto. Non so, io dimmi tu, se vuoi lo chiamo io, se no addirittura ti posso dare il numero e lo chiami tu direttamente. Mi dici che sei un amico mio, che ti ho dato io il numero, le spieghi il problema che c'ha, lui te lo dice, se mandargliela o meno, io non so, se vuoi il numero te lo do. Ah, forse è meglio, visto che c'è più amicizia, ma si vedrà, se lo senti, non è che ci devi spendere i soldi così. Se ti capita di sentirlo, gli esponi qual è il problema. Però non lo questa persona non abbia santo in paradiso, eh. Vabbè, già ne ha amici, già ne ha amici. C'è un piccolo laboratorio, su, prepara baracchine, HF, VHF, sistema un po' di tutto. Ma... quindi magari tramite anche amici e cose riesce, comunque magari c'ha qualcosa lui lì in laboratorio, capito? Vabbè, va, ne prendi qua, vediamo un po', prova a farmi uno squillo e vediamo se mi risponde. Sì, capo. No, vabbè, quello è una persona abbastanza preparata, Giuseppe, e quindi chiaramente riuscirà sicuramente a togliere i piedi, non so, senza voler male chi te l'ha già controllato, è un tecnicamente molto molto preparato su queste radio. Ne ho già parlato anch'io con Massimiliano, perché se decido di mettere a posto, io vabbè, non sono a piedi, ma il tuo, quello lì, è migliore, funzioni bene come deve essere. Però io ho un 757 che se decido di metterlo a posto lo mando da questo amico di Massimiliano, capito? Giusto per togliermi la curiosità di capire cos'è che c'ha, cosa non c'ha, tutto qui. Va bene, vediamo se c'è Antonello. Ale. Sono sceso a scendere Scooby a casa di mamma. Sei già rientrato? Sì, sono già rientrato. Non è che era molto contento di rimanere giù, no, voleva rimanere qui a dormire, top. Giampa, l'hai sistemato sto microfono? Vabbè, riprendi tu, Giuseppe. Ehi, ai, papà! Bene o male riusciva a tirarlo fuori. A Giampaolo, mannaggia. Adesso niente, adesso manco quel poco, perché bene o male poco fa riuscivamo a parlare, riuscivo anche a capire cosa diceva. Adesso in questi ultimi passaggi che ha fatto con te, con Massimiliano, niente, assolutamente niente. Ho ripreso, vai, Giuseppe, un telefono ce l'ha attaccato, l'altro squilla non mi risponde, comunque adesso sicuramente vede la mia chiamata e già mi richiama. E poi già ti faccio sapere, tanto il tuo numero è sempre quello là, giusto? Positivo, sempre lui è Massimiliano. Ah, vediamo un pochino, se può risolvere questo problema, sicuramente te lo fa. A farlo rinascere, mannaggia. Oh, peccato la radio, cazzo, nuova. Ehi, ma per un... ma lasciamo perdere l'acqua. Perché per un momento mi sono passate cose per la testa, guarda, di prenderlo e giudizio, ma arrivato al punto di odiarlo, casa, credimi. Ma magari si può mettere a posto, va. Perché sono sicuro se tu con la radio la metti a posto, poi parlerai solo con quella, credo. Ma sì, tanto io bene o male non è che abbia questo grande assortimento di cose da parecchi, però bene o male farli girare un po' tutti quanti, questo sì ti dà qualche soddisfazione in più degli altri, ed è giusto che funzioni, perché la radio è nuova, l'ho usata pochissimo, Massimiliano. Oggi c'è. Eia. Ma io ne ho radio, sto modulando con un 23 canali base, un Zodiac 50-24 degli anni 70, non tanto più 3, e tutti si preoccupano di andare a fare con Zavisa radio. Fa niente che vedi, dico, fra poco trattiamo 6 canali, no 80 canali, o 6 canali. Infatti c'è da dire anche quello, che qui tutte le volte che accendi fai chiamata e buio completo. Però magari quella lì ti permette, se vuoi fare un po' di ascolto, che puoi anche ascoltare, c'ha qualcosina in più di un baracchino, hai capito? Ah beh, senza un bel dubbio, però dico, per lui ciò che ne stiamo facendo di queste radio, bastano anche 23 canali, tanto adesso siamo sul 12, stiamo occupando Porto Torres, ma già c'è Giampaolo, siamo qua, se deve fare qualche prova, se no cosa fai, ti sposti al 14, ti sposti al 10, sul 5 c'è un altro QSO, cosa cambia, ti sposti al 20, ma va più che bene, tanto siamo una decina di persone che siamo tutte qua, si gira, si fa, anzi fra un po' siete nove. Quindi però dico, anch'io quando stacco l'antenna sono venuto a salutarvi, a parlare, scusate che mi preoccupo perché ho tolto la mantova e sto usando un'antenna multibanda, ma io ce la futti, chi mi sente, chi non mi sente non me ne frega niente, Giuseppe. Sono passati i tempi belli, ormai va bene così. Beh sì, è vero, perché tanto ormai più in basso di così la 27 non poteva cadere. Infatti, adesso non si vediamo appena inizia la propagazione, se ne salirà in alto, se dovete salutarlo già lo saluto lo stesso, non ho problema. E così anche per gli altri, però io una decisione l'ho già presa, non mi sto occupando spazio con questa antenna per niente, capito? Per fare due chiacchiere così in città mi metto la multibanda e questa la conservo, la pulisco tutta, la metto massata. Va bene, Antonio, riprendi. Anche l'antenna di quelli di coso di cambio ti piace, ti appoggiava lo stesso dove abiti tu all'ultimo piano per la 27. Oh, ma la voglio proprio togliere la 27, ecco. L'antenna multibanda a 5 bande 10, 15, 20, 40, 80 metri è leggermente più bassa della mantova, pare che sia 6 metri o qualcosa del genere. Però mi permette di fare altro, quindi quando devo, mi sento che devo salutarvi non cambia niente, non cambia niente, è come usare la mantova in 10 metri, invece uso l'antenna in 11 metri, non cambia niente per me, capito? Tutte le radio che ho, tranne il baracchino, hanno tutti l'accordatore automatico, quindi il baracchino va eliminato del tutto e con la radio HF, con l'accordatore, accordo e entro e saluto. Certo non sarà un grande segnale, ma giusto per salutare già va bene, e se no è un grande mobile a schifio. Va bene, avanti Massimiliano. Aspetta un bel che Roberto, non ho fatto ascolto, che mi sono con la te, ma c'è tutti gli altri che ci sono, tutto a pischi che scende Roberto. Aspetta, ho dovuto sollevare perché non mi ascoltavate, ma invece avete, se ne intende. Ok, adesso a posto. Adesso sì, adesso ho guardato appena Claudio poco fa, ho sentito quando ha fatto il break, che sentivo chiaro la voce tua, poi tu fischio. Già va bene, già ti scendo bene, vabbè, non ti preoccupare, voglia. Ehi, Claudio, tu sei più basso da normale, come va? Sono per terra, mi hai solo le cose della sedia, quindi sono seduto per terra, ci sono vabbè. Ah, così. Chi c'è poi altri? Vado col baracchino, e da oggi in poi mi sentirai, io col baracchino non mi sentirai più. Sto andando col baracchino, 4 watt, tranne più 3. C'è Giuseppe Massimiliano, avanti Giuseppe Roberto. Ciao Robè, ben sentito e ben trovato. Avanti Massimiliano. Sì, positivo, ciao Robè, buonasera, ben entrato. No, ti volevo dire, Giuseppe, anche tu già stai entrando poco però, cerca di accendere la sera, almeno a fare due chiacchiere. Ma io ci provo, però quando comincia a scorrere i canali, io quando sento silenzio mi sento male. La solitudine non fa per me. È positivo, va bene, ok. Va Robè, riprendi per chi vuoi. Buonasera Massimiliano, ciao anche a Giuseppe. Ok, chi tocca? Avanti, Antonello, riprendi tu. Antonello, si è bruciato un attimo. Anzi, mi ha chiamato Simone un attimo, vengo subito. Vai qua. Ciao, d'accordo. Ma io, guarda, Giuseppe, che sto molto in ascolto, ti posso dire che Massimiliano, se non tutte le sere, ma c'è quasi tutte le sere. Poi, vabbè, c'è magari sono delle persone con le quali tu non fai queste ore, però diciamo che in frequenza c'è sempre gente. Io sento Massimiliano, Antonello, ben venga se sento a te, qualche volta facciamo due chiacchiere ping pong con Roberto, ma non è che io sia presente più come prima, è la verità, perché non ho più quella voglia di stare lì a mattarmi al debito. E in ogni caso, comunque, io sento che c'è sempre gente. preso di nuovo col fischio, eh? Col fischio? È strano. Oh, vabbè. Non so se sia troppo alto di coso, di livello. Guarda un po' adesso, in questo momento. Sempre. Mi anche un po' adesso. La luna, ma forse è leggermente alta. Aspetta che la abbasso un pochettino, se no metto 60 di nuovo. Ah, Bogazzino, ma Bogazzino, mettimi 60, se devi stare un pittadone giù. Io ho due, io arrivo che te li porto ormai, e ti rompino un gomito, metti le MC 60. Quella radio deve andare con le MC 60, no, c'è Cristo a fare. Più prove di quella che ho fatto io, non ne ha mai fatto nessuno. Abbinamenti, ma di quelli proprio da scemi, capito? Abbinamenti da scemi. Le MC 60 ci vuole con quella radio, non c'è niente da fare. Anche lo rimetto, non vuole che sia l'apparato che stia andando male, rimetto 60 per curiosità. Ah, metti 60, vai tranquillo, è quello rientro di RF, c'è la parte dell'oscillatore dell'LC del microfono, che c'è il microprocessore nel microfono, non c'è via nulla, c'è il microfono, per carità. Mix, lui sì, come lo sta usando Massimiliano in quella radio, che non c'è il microprocessore in quella radio, ma c'è l'autocontrollo dell'LC, va bene, ma usandolo col 44, con quello fa... praticamente si scontra, no? Il microprocessore della radio con il microprocessore dell'equalizzatore del microfono e non i buchi belli. Vale, adesso come sta andando? 1, 2, 3 prova radio. Manca paragone, mettilo a 50 però che ce l'hai a 500 e tira su la levetta che si abbassa del radio. No, la radio è sempre uguale, però non ho educato nulla. Sono, tieni presente, sono rauco perché mi sono andato a letto, sono potuto un po' suonare, probabilmente per quello. Però tutto come prima, io non tocco mai niente qua. Il livello microfonico è sempre uguale. Allora già va bene, ma sono io questa radio che ti ascolto un po' più basso. Massimiliano, come lo senti adesso? No, l'ascolto bene io, là. L'ascolto bene. Sì, la volta l'ho ascoltato in miglior condizioni, devo essere sincero. Un pochino più alto di radio, ma comunque magari va appena acceso, lo deve scaldare, boh. Comunque sta andando bene, stiamo andando veramente bene. Ok, no, perché qua sto guardando tutto, potenza la solita, il livello Mickey Game mai toccato, non è mai toccato, rimane sempre quello lì a 1 e poco fa sono levato un po' la potenza per farmi sentire, perché ho fatto break sotto, sopra qualcuno o sotto, non lo so, mi hanno ascoltato e poi è ritornato come prima. Senta, questa è la mia solita potenza e la solita radio. Attacca il processore, attacca. Cos'è qua? Attacca il processore. Ehi, è tutto attaccato, non ho fatto nulla qua, è tutto a posto qua, non vuole che ci avesse problemi la radio. Io ti ascolto più basso di modulazione, non è un 60 questo, si sente lo stacco, ma no, non è la modulazione, come ti ha detto Massimiliano, che ti abbiamo sempre ascoltato, c'è sì basso di modulazione, per essere capito, quella radio che ben conosco perché era la mia e so cosa pompa. Con le MC 60 c'è qualcosa che non sta andando, o c'è il processore disinserito o sotto le MC 60 ce l'hai in posizione out anziché in posizione in, non lo so, c'è qualcosa che non va. Ti ripeto che qua adesso stringo bene il connettore di alimentazione del microfono, la connessione, ma tutto normale, tutto ok, i picchi sono positivi, non so, non c'è ancora problemi qua alla radio, perché mi avete già fatto fischi, io qua non mi accorgevo di niente. Il livello, cioè l'interruttore del K, come si chiama, del MC60, sono sempre alla solita posizione, non ne ho mai toccato, sono sempre quelli lì, non so cosa stia succedendo, forse c'è qualche problema alla radio. Dai un pelino più di Mickey Game, un pelino, solleva il Mickey Game della radio. Io adesso te lo sollevo per fartelo vedere, però io non ne ho mai toccato, lo tenevo sempre così. Adesso sono un po' più alto del normale. Cosa ne dite voi, Giuseppe? Allora, io qui ti posso dire che come segnale sta arrivando 9 più 30 e come radio, come modulazione perlomeno, qui nelle mie apparecchiature è perfetta, è chiara, limpida, comprensibilissima. Io non mi sto ascoltando, però boh, vedo che qua sta tutto funzionando bene, va bene. Ok. Anche l'altro giorno mi era successo un altro problema per un'altra cosa. Ho spento, riacceso e ritornato tutto come la prima. Aspetta, faccio una prova così solo per gusto. Sì, ma adesso stai andando bene, adesso che hai aumentato il formichino. Questa è la radio tua. Ah, io del presente non ne ho toccato mai di qua di me, ma anche adesso come sono levato la potenza l'ho toccato per sbaglio, sono a uno, un peluzzino più di uno come potenza. Non lo so, ditemi voi, perché io cerco sempre di tenere le cose senza toccarle. Adesso sta andando bene questo passaggio, ma prima era un po' più bassino, infatti per quello io ti ho detto, ti ho ascoltato in migliori condizioni, perché tu sei abbastanza forte di radio. Però adesso ho aumentato un pochino il mic gain e sta andando meglio. Va bene, dai, lasciamo tutto così, non si tocca niente. Ok, chi c'è? Antonello, vai tu, riprenditi il mic. Antonello l'ha chiamato la moglie. E magari perché noi siamo vicini e quindi io vabbè sono quattro volte e va bene, però tu sei più alto e quindi col baracchino magari tendi, perché sei a fondo scala, tendi un po' a essere chiuso di modulazione, vabbè, non c'è problema. Avanti Giuseppe Tornaro. Ma dai, riprendo io, ne approfitto anche per salutarvi, mi stanno chiamando giù in cucina e mi faccio una scappata a vedere che è successo. Niente di strano che ci siano già i preparativi per la cena, se tutto va bene riusciamo a cenare anche oggi. Niente, ciao Claudio, Massimiliano, Roberto, chi è qua insieme a noi sulla 27, dai, un salutone a tutti, grazie per la chiacchierata, sperando di risentirci presto. Giuseppe, che devo dire? Già ci sentiamo, fatti sentire come ha detto Massimiliano e alle prossime comunicazioni. Ok, vai Massimiliano. Ciao Giuseppe, dai, buona serata, buona carica e buon proseguo di giornata. Se mi chiama quella persona ti faccio sapere via filo, ok? Ti faccio sapere, va bene, ok, va bene. Sì, ciao Giuseppe, buon tutto, dai, buona serata, se non ci sentiamo buona giornata per domani. Ok, di nuovo Claudio, prendi il mic. Ok Giuseppe, se vuoi ribadire a Massimiliano, a te ancora. Massimiliano, io sono qua, senza nessun problema. Poi per qualsiasi cosa, necessità tua o qualsiasi cosa, sai dove sono. Però a me non ti mettere problemi, però è per così. Magari ci togliamo anche una soddisfazione, mi hai capito, non per altro, tutto lì. Ok, dai, buona serata, vai a cenare che è troppo tardi, No, io la verità non sono abituato a cenare troppo presto, sennò un casino. Io le ore di cena sono sempre le 9, 9 e un quarto, 9 e mezza. Dai, salutoni a tutti. Una domanda, l'avevi colata poi con l'antenna, con la credimenti? Non capito, sei tutto strappato, ok? Allora la radio, cosa hai detto? Guarda, probabilmente se sono strappato dipende da te, perché se andando in saturazione come fa col patch, abbassa le RFID e chiudilo tutto quanto, se no non riesci a sentire. Anche io quando attaccavi tu con la tua radio non riuscivo a sentire, dovevo chiudere le RFID. Ho detto, se l'antenna l'avevi provata, quella che c'era a fare col ponticello, per mettere col ponticello. Strappato, vabbè, non è lui, no? No, sei tu, vabbè, io cosa devo abbassare? Cosa devo abbassare? Su con 4 watt? Sono con 4 watt e no, cosa abbasso? Non c'ho niente qua attaccato, proprio zero, c'è l'antenna diretta col commutatore e basta. Eccolo di nuovo. Madonna santa. E 7 e mezzo. Teniamo il 2. Vabbè. Ore 19 e 30 minuti. Adesso la bacchetta radio. No, abbassare l'RF gain, che sono magari troppo alto di livello e magari ti sto saturando per quello. Ma qua mi sembra che andando tutto bene. Io provo a cambiare il radio, così l'ascolti magari meglio, va. Io non ti ascolto tanto bene, magari adesso la radio si è un po' scaldato, vabbè, e magari adesso è troppo forte e tendi a strappare, magari devi abbassare un pelo. Ma è proprio gracchiante, tanto gracchiante, no, già arriva bene, non sei a fondo scala con questa radio, non è che questo è un base, 220, no, non ci arrivi a fondo scala, non ti preoccupare, il segnale è 9 più 40, la scala massima è più 60 di questa radio, no, lo ascolto bene o Massimiliano, è che ogni tanto strappa, proprio non strappa dal microfono, già me ne accorgo io c'è il microfono, è proprio la radio, fa capito? E quindi non avevo capito le parole, adesso le ho capite. Ma la direttiva sta dicendo, vabbè. Ehi, a quella della 27. Quella non è della 27, non quella per i 10 metri. È stata accordata per i 10 metri, quella fa 26,30, non fa 26,28. Fa 26,30, quindi è praticamente la monobanda per i 10 metri. Sì, sì, sta funzionando, alla grande. Sta funzionando alla grande. Da 28 a 28,600, 650 c'è uno di stazionario, fate il conto. Solo che il rotore ancora non l'ho montato ed è puntato a notte, ma già va bene, non c'è provata, non c'è problema. Il lavoro che è stato fatto del ponteggio del ballon, ma è quello lì, non ho sbagliato, ho capito, se è quello che volevi sapere. Quello volevo dire, l'unico dubbio era sul collegamento del ponticello, il resto va bene. Adesso quando c'è qualche giornata di bel tempo, detto l'altra io, quella che ti ho fatto vedere, quella militare, almeno per collaudarla. Come sta andando adesso? Bene o problemi? Adesso sta andando bene, benissimo. Avanti, Massimiliano. Sì, sì, confermo. Ah, ma perché prima non c'era mai l'orario? Adesso ogni ora, ogni mezz'ora. E allora, una funzione c'è nel 7004, parte da solo in VHF ogni mezz'ora, mi esce alle 8, ti torna a dare l'orario, ogni mezz'ora fa dirò prima lo canarino e poi i cosi e ti dà l'orario. È positivo, positivo. E almeno c'è sempre l'ora giusta. Vabbè. Ci funziona anche altre cose invece dell'ora, non era meglio. Aveva bucato la mano, mi aveva dato un centone, no? E magari due centoni. Vedi, c'è quello di spiegare. Buongiorno, Antino Claudio. Venga 100 euro per domani e non li spenda tutti, va a far culo. E magari. Vediamo un po' se c'è rimasto Giampaolo, c'era Luca, c'era Pompone. Vediamo un po' se è rimasto qualcuno, va. Le 5 ci sono Gianni e Giulio. E noi siamo qua, noi possiamo stare tutti assieme. Qua c'era Giuseppe e siamo rimasti qua, andiamo bene. Meno confusione facciamo. Sicuramente già ci ascoltano, di Splatter, cioè specialmente Giulio, vabbè io non ascolto per niente, magari lui di Splatter qualcosa già mi ascolta. Vabbè, se si sposta Roberto io devo passare per forza lì. Oppure cambiare radio, perché con questo non sento niente io, non sento niente, però lui con i baracchini, a lui e a Roberto, cioè a lui e a Antonello già li sento, con gli altri radio assolutamente, è vero. È positivo, no, io con questo devo essere sincero, se c'è Gigi che è attaccato, è come che lo sento, con i pareti, Gigi? No, io no, né con 140, vero, ce l'ho più, ma con 430 è... E col 440 no, poi con gli altri vabbè sono in banda amatoriale, ma adesso sono tutti in banda amatoriale, ho deciso di usare questo baracco alle 2.20 per fare due chiacchiere di città, va più che bene, tanto cosa cambia? Non cambia niente, quando c'è qualcuno di tuba basta spegnere e arrivederci, buon viaggio. Vero vabbè, Gaielli. Sì, a che cos'è questo qua? C'è il Zodiac base, Zodiac B5024, praticamente il Tokai fatto in versione base, stesso colore, insomma tutto, stesso pomodoro del canale, con la colonnina davanti, ma c'è una ricezione e poi l'abbinamento tame più 3, no, non si discute con questi a PLL, capito? No, già sta andando bene, non ho niente da dire, le c'è più. Pippa già Pippa è che c'ha 4 watt, vabbè non fa niente, mi Massimiliano, ma con Gigi mi hanno cambiato il connettore, hanno messo a 4, connettore universale Alan 48, quindi posso usare tutti i microfoni. KK, avanti Massimiliano. Positivo, là, mi attendo, il terremoto è entrato. Ascolta, io vi lascio 2 secondi, là, 2 secondi solo, riprendi Roberto. E io. No, la camera è un bel microfono, già si sa. Vai, Massimo, non si preoccupa. È un bel microfono, rende bene, poi con quella parte che sta andando già va più che bene. Beh, questo è un Turner però, non di GC, Turner di GC3B, 3C eccetera, questo è un Turner che non c'ha nessuno, questo è un Super Cider che ti ho detto, quello cromato, tutto cromato, che avevo comprato quando sono andato alla fiera di Milano, ma c'ero un sacco di anni, è nuovissimo, perché il Turner più 3 è quello normale, è un po' più leggero di questo, questo spinge e poi si adatta molto bene a tutti i microfoni. Questa serie qua, questo Turner Super Serie che c'ero io e Walter, perché non è che si trova molto facilmente, lui l'ha trovato da collezionista, io l'ho preso da un collezionista di Milano. Già spara bene, non può farmi le connessioni a quell'altro tipo di quello militare Turner. Vedi, quello dovrebbe andare lo stesso, perché quello lì se tu lo metti per esempio su una radio che c'ha il processore come il 440 e le fai le connessioni K, quello spinge un casino. Perché ti dico così? Perché io con l'MC50 che è normale, no? Con 440 che l'ho provato, basta tenere il processore inserito e praticamente sollevare un po' di più la mic gain rispetto a come usi l'MC60, capite? Funziona molto bene, per quello che sto dicendo. Basta, l'ho cercato su internet, non c'è uguale, sono andato sul sito della Tamiya, ci sono tutti i microfoni, non c'è quello lì, è esattamente uguale, cioè ce n'è uno simile, però è nero, non così colore militare, non c'è neanche uno. Io il dubbio mio era stato riverniciato, ma invece è originale quel colore. L'originale verde militare, quello arriva, ti ho detto, da Dove. Capito? No, non possiamo dire niente qua, ma arriva da. Proprio dall'originale, quello è un Turner verde militare di trazione base di trasmissione, che ti dirò in verticale, è un bellissimo microfono quello, è un microfono normale da tavolo, come ne ho tanti altri, come ho anche il Turner più 2 uguale a quello della linea Alicraft, che praticamente non è preamplificato, capito? Però è uguale al Turner più 2, non ha il preamplificatore, capito? Come quello lì. Uguale, preciso identico. Capo, arriva una cosa, poi quei trasformatori 110, tutti e due li ha provate? Già. Poi c'è sempre qualcuno sotto parlando, a me sta rispondendo a quell'altro, Ocla. Giampaolo, dimmi Giampaolo, non devi spegnere le altre radio, Giampaolo, le rovini, cazzo, le rovini, spegnile. Benissimo, alla grande, segnale quasi 9, e la radio è super 5, vai Robè, Giampaolo. Mi era tutto a fischi, non mi piaceva, qua non sta arrivando così forte, arriva più basso, però la radio è buona, però c'aveva dei fischi, e adesso va meglio, dai. Adesso forse c'avevi qualcosa, di qualche rientro di qualcosa, però stavo dicendo, Claudio, avete trovato quei trasformatori di 110, 220-110, tutti e due andavano? Scusate un secondo, dai. Vi lascio che devo fare direzione Sassari, dai. Buon proseguo di QSO, ciao Giampaolo, ben entrato, Radio 5, Santiago Longo da parte mia, ciao Roberto, ciao Claudio, ciao Giampaolo e tutti i vari ascoltatori, vi lascio che devo andare a fare una commissione, dai. Ci sentiamo alle prossime, grazie QSO, buona serata e buon proseguo, ciao ciao. Ciao Massimiliano, alle prossime, dai, ci sentiamo. Sì, tutto bene, è attaccato quello piccolo che mi hai riparato, è attaccato al DAC che c'ha meno potenza, e quello grande, come me l'hai dato, gli ho fatto un tappo, sia che magari per sbaglio ci metto la mano sopra quando vado dietro, ed è attaccato alla linea Alicraft di lusso. Avanti Giampa, che linea gli hai attaccato? Già ho capito, si assomiglia al BV131, già va bene, arrivi benissimo a Giampaolo, non c'è problema, e già ci sentiamo, e io sto andando con 4 watt, cosa che è un problema, va bene, avanti Robè. Non si sta aiutando, è pulito, sei liscio Giampaolo? Io trasporto più basso degli altri giorni, l'altro giorno trasportavo molto più forte, non lo so, vabbè, forse non ci sono le stesse condizioni, ma trasporto più basso degli altri giorni. Perché lui può attaccare in linea 50 watt è importante. E modula da più watt 140 che sul lineare sicuramente. Io dico quello Gianluca, tu l'hai sentito quella Gianluca? Sono rientrato, Ciao Luca. 140.000. Arrivi più forte di quella attacca il branchino con lineare, ciao Luca. Perché qua passo basso, lo sento più pio a Gianpaolo, confermo lo che dice Roberto, e sembra una cosa, già mi arrivi in basso, adesso è ancora più basso, sì, proprio da me sei quasi incomprensibile. Sì, vabbè, ma evidentemente per la zona sua sei negativo, Gianpaolo, non ne devi fare di tutto una malattia, qua sei Santiago per Radio Super 5, Roberto, come lo senti col K? Ha migliorato, però 5 piena non gliela do la radio io. Segnale siamo intorno a 7-8, però no, lo sentivo più forte degli altri giorni. Gianluca con un segnale di 7 arrivava perfetto, pulito. Oggi lui, non so forse che problema, se c'è qualcosa all'antenna lui, non lo so, io lo sento più basso del normale. Sì. Qua c'è una bomba. Oh Robert, ti smentisco perché evidentemente anche la tua colonnina, l'altoparlante, o proprio la ricezione di quella radio sta andando a farsi fottere. Guarda, io non ho mai ascoltato Gianpaolo così bene come lo ascolto con questo baracchino, ma veramente. Gianpaolo si è salito a 9 più 5, ma i segnali che tiro io tu non li puoi paragonare a quelli che ti dà Luca o a quelli che ti dà Roberto. Abbiamo una zona completamente diversa, capito? Quindi un'altra cosa. Qua stai arrivando adesso, come sei salito a 50 watt, non avevo dubbi, sei 9 più 5. E la radio è super 5 da parte mia, non c'è nessun problema. Roberto Quadrato, ma Roberto Meccanico, cazzo male già lì così. Vabbè. Comunque qua va bassissimo, ho un problema mio. Tu me ne ascolti già un paio, io sono con circa, non so, mi sa che non la posso da 15 watt Fabrizio. Ma come mi ascolti già un paio? Io ti ascoltavo prima, vado col K, no, che arrivavi qua, Cioè, ti ascoltavo benissimo, radio super, come stavo con questo paraggio che sento basso. La mia antenna, quella lì dice, è ancora buona, c'è ora 2-3 anni, Ah, nella via che c'è il baracchino, ma che proporzione fai? Puoi mettere quel baracchino tutto scacciavitato, tutto toccato 30.000 volte con 140 che c'avevi, è chiaro che il baracchino. Controllo se c'è RF gain che usano, lo so, ma qua io sto usando un baracchino, ma molto molto inferiore a quello che c'è tu, perché c'ha 23 canali, non c'ha niente, non c'è FM, però è originale, non è mai stato toccato. E Gianpaolo è Santiago 9 con questo baracchino, commutato il 440 a Santiago 9, capito? Quindi per quello io segnali li do giusti con questo, è Santiago 9. E tu hai lo stesso segnale di come arrivi col K con quel baracchino, 9 più 20. 9 più 20, chiaramente quando usavi 140 mi arrivavi 9 più 25, con picchi a 28, capito? Mentre adesso sei 9 più 20, però 9 più 20 sta segnando anche in questo baracchino, Sì, no, ma ci mancherebbe, ma non so che baracchino, lo so, è già abitato, poi se l'ho messo a posto, l'ha riallineato perché, diciamo, come prima, come si è andato prima, che era un po' spostato da M, lo sentivo un po' strano, mentre chi manda adesso è perfetto, insomma, perfetto, oddio, va bene, dai, quando prima mi sono andato a cercare le persone, e anche da M l'ha rimesso a posto, prima l'ha già abitato. Guarda, io sono con 4 watt, avanti a Gianpaolo arrivo minimo Santiago 3, anzi massimo Santiago 3, quanto ti sto arrivando Gianpaolo? Figurati tu, 3, 3 e mezzo, te immagini, sono con 4 watt, 3, 3 e mezzo, quando attacco l'alto gli arrivo oltre 9, quindi c'è la differenza. Siamo i baracchini, non è che cambia niente, ma è una cosa di una puttana importante, ci sentiamo. Dov'è? No, Santiago adesso è un pochettino un po' più vicino al 9, quasi 9, però la radio non mi è venuta a me. La sento, è brutta. Senti brutta, ma c'è qualcosa che te lo faccio ascoltare a Gianpaolo come arriva qua? Boh, come fai a dire che è brutta? C'è qualcosa in quella radio tu? Non lo so. Se tanto sporco, cioè come che si sta portando appresso un disturbo, cioè non è, il 5 pieno non glielo do, anche se il segnale adesso era 8, quasi 9 con i picchi, 8 e mezzo, dai. Però la radio non è buona, non è 5. Io 5 gliela do perché lo ascolto bello pieno e bello pulito, magari c'è qualche sottofondo che si sta portando lì da te perché il segnale è un po' più basso, qua è 9 pieno e col picco sale anche a 9,5, 9,3 e quindi la radio è molto molto pulita e molto forte. Avanti Giampa, poi parla lui. Adesso è un po' più di 9, è salita un peluzzino più di 9, però la radio è sempre brutta. La sua voce? Un pochettino, siamo intorno al 9, ma qua fa era 8 e mezzo, adesso è arrivato 9 spaccato, però la radio sempre c'ha questo fruscio, sta portando appresso un disturbo, non è perfetta. Considerando che l'altro giorno io stavo ascoltando la Gianluca che era Santiago 7, il segnale era perfetta, aveva la radio, arrivava la bomba, proprio pulita. Ma ripeto, io volevo guardare qua Claudio, anche se con il più le 9 qua Gianpaolo. O quasi no, non mi ricordo. Quando arriva uno con questo baracchino, me lo spieghi? E tu mi sembra lo stesso segnale, soprattutto lo stesso, e quello non riesco a capire. Questo non lo so io, però io qua Giampaolo arriva così, arriva a Santiago 9 da sempre. E Santiago 9 sta arrivando con questo baracchino, quindi Luca non so cosa dirti. Non lo saccio. Tu qua il tuo segnale è a posto, quindi l'antenna non è. Sicuramente quel baracchino sarà mezzo sordo e in lontananza e in vicinanza invece satura, quindi sicuramente è un problema il baracchino, perché può anche essere che le medie frequenze a lunga distanza siano chiuse e quelle a breve distanza siano troppo aperte, quindi se ne è lavora in quella maniera, si abbassa molto lontananza, capito? Tutto qua, perché io ti sto arrivando 9 più 20 con 4 watt, vuoi vedere che metto a 4 watt l'HF e ti arrivo molto di più, sicuramente, capito? È così, col baracchino c'è qualcosa da fare ancora, qualche regolazione ancora da fare, va bene, il fruscio che senti è sicuramente qualche ventolina, qualcosa la sento anch'io, ma è molto molto pulita la radio Giampaolo, no, non ci sono problemi. Abbassa la Giampaolo, mettila com'era, dove c'è, metti 30 watt di portante bianca, lasciala così che vai benissimo qua. C'è qualche riflessione, perché la radio è sporca, io non riesco a sentirlo bene, è molto molto disturbato, il segnale è 9 adesso, quasi 9, però è come se sta parlando in mezzo al QRM, quando c'è un segnale di 2, di 3, così lo ascolta, non riesco a sentirlo bene, probabilmente sono in zona morta, lui c'ha qualche palazzo, qualcosa che gli fa abbattimento, non lo so, perché è impossibile con un segnale così forte che arrivi a livello di QRM quasi di radio. Tutti perfettamente, anche a Corso, ascolto Alghero, cazzo, bene, con segnali molto più bassi, a lui, l'altro giorno ho detto Gianluca 7, arrivava a bomba, perfetto, infatti gli ho fatto il complimento. 50, rientra là e diamo qua. E allora è tutto. Se ripiatta la mano, va almeno un segnale 7 da me, buono arriva. Perciò è un problema dell'antenna qua. E per perché il motore sarebbe benissimo. Cioè, come andavo a pescare con Franco, quando parlavo di mani della cosa, con questo baracchino, non con 140, non c'era qua allora. E mi andava benissimo, bene, l'audio perfetta, 5 a bomba, la macchina di Franco con l'antenna l'hai inviato tu, se ti ricordi, guardate la piccolina, al porto. Sì, ma infatti state facendo un problema, però ripeto, il segnale che do io a Giampaolo, senza nessuna presunzione, è diverso da quello che date voi. Se tu, Roberto, mi dai una frequenza anche in VHF con ricevitore, intanto tu c'hai il ricevitore, no? Io ti faccio sentire come mi arriva a me di radio Giampaolo, giusto per toglierti il gusto, capito? Perché qua arriva fortissimo, non bene. E ti dico un'altra cosa, che la radio che c'ha Gianluca, che è uguale a quella, non ha niente a che fare con quella lì, perché io Gianluca lo sento molto, molto più basso di radio rispetto a quella di Giampaolo, capito? Cosa che invece tu senti meglio, io lo sento peggio. Beh, quello Gianluca lo sento molto, molto meglio di Giampaolo, un abisso. Ma come segnale? Segnale radio, Gianluca arriva a 7 qua, se non sbaglio, non mi ricordo, la radio 5 è bella, arriva benissimo Gianluca qua. Già non vedo chi va nelle antenne. E come io ascolto Sandro da Porto Torres, arriva a quante temi, hai capito Luca? Sandro arriva a 9 più 20, arriva a quante te, quindi fate il conto. Se non c'è l'antenna va bene, però dico, per le condizioni che sta trasmettendo Giampaolo, quella radio sta andando anche troppo bene, per conto mio, per come lo dicevo io ce l'ho vista ottica, Roberto, tu non ce l'hai a vista ottica, tu c'hai davanti la come si chiama, dei palazzi, io non c'ho niente, io vedo l'ingresso di Porto Torres, quindi Giampaolo ce l'ho davanti, quindi il segnale che ti do è reale, anche con questo baracchino, sta arrivando Santiago Nova, la radio è 5 è perfetta, ma 5 vuol dire 5 per me, non è che... sapete benissimo, io a me può arrivare uno di segnale, ma se la radio è 5 è 5, se è 3 è 3, e se uno non esce lo dico che non esce, non ne ho dei problemi. Per me sta andando benissimo lui, è un problema tuo. Tocca, vuole guardare la radio. Avanti Giampa. No, per questo te lo faccio sentire. Ma a me stai dicendo qua? Sì. E poi la solita vostra, cosa aspetta fare la vostra? 525. Ah, non te lo posso far sentire lì, in UHF, 433-500, ce l'hai? Aspetta, se vado, 433-500 hai detto. Aspetta, memorizzate, dammi l'ok. Sa. Ah, ho sentito, tu l'ascolti bene. Allora, il livello di intensità di radio è forte, anche io l'ascolto forte di radio, però c'ha questo fruscio, tu non c'hai quel fruscio che io sento, probabilmente io sono negativo, cioè lui arriva forte di segnale, perché è 9, questo passaggio è 9, però la radio si porta appresso il QRM che li brucia la radio, perché il livello di modulazione è forte, come lo stai ascoltando tu, l'ho ascoltato anche io, però purtroppo sono negativo, io secondo me c'ho qualche riflessione o qualcosa che li penalizza la cosa, l'emissione. Mentre a Gianluca, ti ho detto, con un segnale di 7, io ascoltavo 7, la radio era perfetta, pulita, è un segnale più basso per dire. Scusate un attimo, sono qua un attimo, sono rimasto, ciao, buonasera a tutti. Non è una bomba Gianluca, no? Senti, arriva la macchina, mi, capito? Io stavo trasmettendo... Hai avanti scivati, Vani. Scusa un attimo, allora, no, scusa, stavo rispondendo involontariamente a Luca. Ma non c'è gli stessi watt, oh Luca? Dai, togli forza la cavata. Boh. Ogni mezz'ora batti il corridore, Luca. Boh, ma poi sì. Stavo dicendo... Aspetta, che termina questa... 20 e 0 minuti. La radio che va in automatico con l'orario. Ho detto, Gianluca, non sai quanto mi arriva qua. A te ti arriva a 7, ok? Qua mi arriva 9 più 10, cosa c'entra? E c'è un'antenna diversa e sicuramente anche i watt sono diversi, ma a parità di potenza Gianluca arriva a 9-10 e Giampaolo arriva a 9. E va bene, per me va bene, perché Giampaolo sta usando un quarto d'onda, Gianluca sta usando una 5 ottavi o lui. io stavo con il segnale che mi era stato giorno, era dall'auto, capito? Adesso sono a casa, il mio QPH, avanti. Vuoi dirci picchi positivi, cioè l'altro giorno la radio era diversa però da questa qui, e il segnale più basso, la radio era un pochettino diversa, la sentivo, però forte tutti e due. Te lo torno a dire, forse non mi sentito, l'altro giorno ero in macchina. Spiegati, vatti va. Sono a casa. Sì, sì, ho capito benissimo, adesso il segnale è molto più forte, quello lì certamente, sicuramente è cambiato, le condizioni sono cambiate. No, ma io parlavo l'altro giorno, non so dove eri, tu sei a Porto Torres, se dove eri, io ti parlo, un segnale Santiago 7, ti davo la radio 5, mentre lui c'è un Santiago 9, la radio 5 non gliela do, li posso dare massimo 3 a Giampaolo, è solo quello il discorso. Ho capito, ho capito. Vabbè, ma come dice Claudio, c'è un'antenna diversa da quella di Giampaolo, però mi trovo anche... Vuoi mettere questa radio? Sono tante cose. Ah, vabbè Gianlu, cioè vuoi mettere questa radio con quella di Giampaolo? Te lo faccio sentire come lo sento io di radio, lascia perdere il segnale. Te lo faccio sentire come sento io Gianluca. Claudio, non mi sono spiegato, io ti ho detto che lui con un Santiago 7 non aveva fruscio, non si portava niente appresso. Giampaolo si portava un bel, si porta molta molletta, anche tra la radio è forte, però non è pulita, non è esente da disturbi, è come che c'è in mezzo al QRM, pur avendo una radio forte, però è il segnale forte, però è quasi decaduta, diciamo, perde tutto con la radio. Adesso lui la radio non è fortissima, però almeno è chiara, il segnale è forte, sono 9-10 abbondanti ci aveva, però la radio era chiara, non è forte come quella di Giampaolo, però almeno è chiara, solo quello ti voglio dire qua. Se tu metti il 140 col timer più con le EMA, con le MC60, io posso fare le comparazioni e Roberto può fare le comparazioni. Prova a vedere. Papa di Roger, ok. Allora. Hola. Questa parte c'è sempre bacino di radio. Questo è il cattino, non so come mi ascoltate, avanti grazie. Sì, c'è sempre quel problema lì dell'MC60, però diciamo che in linea di massima la radio è abbastanza corposa, Robè. Sì, bravo, io secondo me c'ho problemi io di lui verso di lui, tu probabilmente sei più pulito, più orientato alle antenne, riesci a riceverlo. Gianluca, anche se è a 7, cioè se scende a 7, va sempre bene lo stesso, signore, cioè la radio è sempre chiara. Io probabilmente nelle sue condizioni, lui sicuramente se mette l'antenna da 9 che è salito, che c'è adesso, può salire anche a 9,20, considerando che sta uscendo con l'antennino. Però io sicuramente sono in posizione negativa verso di lui, ci porta presso un'interferenza, come che stai in mezzo al QRM. Mentre Gianluca, niente, pulito, perfetto. Poi la radio più bassa non sarà spinta come quella là, però la radio gli do 5 pieno. Ah, ok, quindi questa radio contro quella 3 la faranno prima, registrato il prezzo, ciao Sandra. Questa radio potrebbe fare di prima e come segnale come radio ci siamo? Sì, forse un pochettino più basso, più o meno adesso non è che l'ho memorizzato i segnali, però la radio ti do sempre 5 in tutti e due i casi, non è potente, fortissima per dire come ho sentito a Luca e a Claudio, sono due radio diverse, però è perfetta, di come emissione ti ascolto perfettamente, non c'è nessun disturbo appresso. Buonasera, circolare a tutta la ruota, dai, ben ascoltala Piero, perché facciamo una cosina. Sto facendo un attimino, diciamo un attimino l'ascoltone. Ok. Dopo come va? Circolare avanti Claudio. Aneva i segnali, Robè. Aneva i segnali dal villaggio. È una cosa allucinante, ma questi sono segnali che noi conosciamo soprattutto con Sandro da 30 anni a questa parte. Perché? Perché su Sassari si è vista ottica. Nonostante Sandro sia qualche palazzo indietro a Giampaolo, qua non ce n'è per nessuno, ma ci dividi, ti sovramoduleggia Luca a Sandro, è 9 più 20, da me è 9 più 20, ma rendete conto cosa vuol dire? Vuol dire che la vista è quella, quindi quando io do 9 a Giampaolo con quell'antenna di fortuna, 9,10 a Gianluca e 9,20 a Sandro, credetemi che è la realtà, mentre ho sempre dato, perlomeno quando me li ha chiesti, controlli a Coso, a Gavino, che è nella zona di via Balai, non arriva più di 9, nonostante abbiamo a Mantova, quindi in proporzione, Sandro, non so se mi sto spiegando, in proporzione, secondo me, arriva meglio Giampaolo di Gavino con l'antenna alla fortuna, capito? Non ci mancherebbe, ma dipende anche dal punto dove è. Però devi contare che magari lui è più aperto verso la parte tua, io ho più palatti da scavalcare anche su una strada, non c'entra niente, non c'entra proprio niente, là. Guarda, c'è un qualcosa che da te mi copre, capito? Solo un attimino, aspetta. Prosciu. Saluta Claudio. A Claudio saluta. Siamo con le coglioni stavano anch'io, ma due. Ma questo non ce l'ho messo. Hai conosciuto là? Chi è Emanuele, quello che esce in continente? Ginko, Eia. Ma è come cagginista su internet, mamma mia, ragazzi. Non si può fare che è andata. Non ci sei quasi mai. Questo Roberto CB abitava qua a Sassari, tanti anni fuori. Beh, ti posso dire, Roberto, l'ho collegato a Gincola. Lo vedi, Emanuele, quando l'ho collegato a Mantova, lo vedi? Ah, ecco, l'ho collegato da qua, mi roba, allucinante. Lo sentivo anche bene. Cioè, come le cose sentire Ginko, uno che stancava qua in continente, va. Ci è arrivato un po' meravigliato. Però arrivava a 9, sai, 9,10, boh. Vabbè, che punto ero da non so se ho reso l'idea poco fa. Lei non è così, dai, logicamente Giampaolo ha penalizzato perché ha questa antenna qua, ma io ti posso dire, se Giampaolo dovesse riuscire a mettere un'antenna, una 5 ottavi, diciamo nelle mie proporzioni Giampaolo è molto più aperto, c'è proprio un canale molto più aperto nelle mie condizioni attuali. Considera che io ho un palo da 3 metri, davanti a me c'ho il palazzo, già ce l'hai presente, c'ho il palazzo della Sisa e quindi sono anche, diciamo, penalizzato. C'ho un palo, ma è più aperto, però attualmente si trova, diciamo, in condizioni, diciamo, precarie riguardo la tenda. Se c'è un palo dovesse mettere una mantova, diciamo che per dire, nelle mie condizioni a me mi supera. Mi supera perché è molto più aperto e io dovrei sollevare il palo per dire, ma non posso sollevarlo più di tanto perché qui d'inverno quando soffia la grande. Gianluca logicamente è anche penalizzato perché Gianluca avendo una 5 ottavi, Gianluca diciamo rimane in un fosso, è molto più basso nelle mie proporzioni e più basso di Giampaolo. Poi chi riceve bisogna vedere come sta ricevendo, le condizioni, se c'è ostacoli e quant'altro, insomma. C'è sempre il pro e il pro e il contro, dai, tutto lì. Avanti Roberto. Io probabilmente c'è qualche riflessione di qualcosa che penalizza la mia ricezione, perché ripeto il segnale di Giampaolo è buono, un Santiago 9 deve arrivare perfetto come radio, c'ho qualche disturbo dovuto a qualche riflessione di qualche struttura di qualcos'altro, perché io ho segnali più bassi, quelli di Alghero, che arrivavano 7, gli davo 5 di radio, con distanze più lunghe rispetto a quelle che possono essere Porto Torre del Sasso. Positivo, come per dire, io sono favorevole, diciamo, per la zona Castelsardo, quelle zone lì, Alghero negativo. Ma adesso mi avete fatto venire un attimino a ricordare una questione. Se mi date tempo di 2 secondi, devo staccare un attimino perché non ho il commutatore, volevo commutare così a caso, vediamo un attimino, se esiste ancora, se esiste ancora, so che su, però non so com'è. In che condizione sia? Riprendi un attimino qua. No, no, ma Robè, non fa una grinta, io ho abitato a Porto Torres e lo so, quando sono venuto qua ad abitare, che ancora erano praticamente in funzione di VSCB, in attività di VSCB, come Vincenzo, come Fortunato, come Ernesto, come tanti altri. Francesco lo stesso che parlava da quella zona, arrivavano molto molto forte, voi ancora non eravate in attività vera e propria, ce n'erano pochi CB a Sassari quando sono arrivato io, cioè tu non c'eri, non c'era un bel CB a Sassari, sto dicendo, quindi facevamo molte questioni, molte lotte. Segnali che arrivano dal villaggio a me sono allucinanti, ti sto dicendo, tu immaginati che Sandro a me mi arriva quanto mi sta arrivando Luca, 9+20, ed è liscio perché lo vedo, perché se lo dovesse aumentare mi arriva ancora molto, molto più forte, da sovramodulare gente che fa questi WhatsApp. Quindi per farti capire qual è la differenza tra me e te, io li vedo, quindi non mi disturba il segnale, la radio praticamente rimane molto chiara perché il segnale è bello attivo. Capito, a differenza invece di Luca, di Sassari che riceve a Giampaolo molto molto basso perché evidentemente il varco che ha non è completo nella trasmissione, ma Gianluca di Porto Torres per quella posizione che ha, che rimane dietro Sandro, 9+10 sempre mi è arrivato, 9.5, 9.10. Giampaolo a posizione di potenza bassa è 7.8, quando aumenta un pochino oltre 50 watt supera anche lui il 9, quindi per me va più che bene, è ottimo. Avanti Gianluca. Questo segnale si inizia così, sì, 9+5, cioè te le immagini Robè, 9+5, solo liscio mi, anch'io sono liscio, guarda io sto usando il baracchino 4 watt, un 50-24 della Zodiac che è un tale più 3, 4 watt, non si muove da 4 watt, né picco di più e né picco meno, 4 watt, mi sta arrivando 9+5. Sta parlando stesso segnale di Gianluca c'hai. No, c'ha dei picchi allucinanti di modulazione, sale da, 8 a 9 e 5. Ho arrivato io. Ma qua il segnale no. Poi mi dicono, cioè, senti Robè, ma io come faccio poi magari ad ascoltare, quello c'ha problemi di antenna, non può montare un'antenna, ti buono di polo, ti buono un pezzo di giro, vai da Sandro. A voi da Sandro con un di polo da un quarto d'onda, quello mi pare, un quarto d'onda, 9 più 10 da Porto Torres, ma cosa vuoi di più? Va bene, dai, ok, mi approfitto, mi approfitto a salutarti. ma dai, ci sentiamo, stiamo in bene. Buona cena, buon tutto, e quando sei a Sassari passa a trovarmi. Avanti, Robert. Ciao, sono ben sentito, è possibile. Stavo dicendo, ma sei l'orizzonte, Alessandro? Sei in orizzontale, di quello come in orizzontale l'hai messo. Allora, se non ricordo male, il ferrocarro era portato, era in verso verso Vasinara, e sono freddo, è rimasto verso Cattestato. Non ho dovuto mettere così per questioni di affetto e di TV. Complimenti, comunque, te l'hanno una grande, perché il segnale è molto forte, considerando che c'hai, come dici tu, un pezzo di filo. Mondiale, non fanno più tre. Vabbè. non ci siamo paragoni a come stavo dicendo poco fa, molto molto più forte, molto più presente la radio, ma infatti cioè, per l'uso come facciamo noi, tu c'hai già un 40 canali in più, io ho sto Zodiac 50 24 base, 23 canali più l'11 alfa, col termine più 3 lo stesso, sarà sicuramente la radio che terrò per fare due chiacchiere in città, anche se cambio l'antenna già va bene lo stesso, se poi non mi sentono c'è un VU131, quando c'è magari qualcuno in lontananza mi aiuto con un centinaio di watt, già va bene. Più che altro quell'altro apparato lo utilizzo perché c'è una bella ricezione, mi piace per la ricezione quando sono segnali distanti, ma poi in città già vanno bene anche questo. E questa è una radio mondiale, è fortissima, molto molto bella. Quante volte ti dà quella radio più di questa? Aspetta, quando dovresti assegnare, beh, 7 watt tira questa, 6-7 watt così. 6-7 watt però, va bene, io sono con 4 e ci sente anche poco 14, quindi così mi va, già va bene, va bene. Una volta che poi ti organizzi come sono organizzato io, che ti separi l'HF con le U e con le U, sicuramente ti metterai uno di quelli, base, 220, ti dà la possibilità di fare due chiacchiere in città con gli amici, perché diversamente non si può impegnare un 440, un qualsiasi HF, dico 440 perché ci abbiamo questi, ma non si può impegnare, io c'ho quegli 80 metri che praticamente dovevo commutare da una radio all'altra, invece adesso ho l'850 in 40 metri, il 440 in 80 e il 430 in 20, capito? E quindi più o meno mi faccio tutte le bande che mi servono, capito? E a parte quello 7004 che è sempre a... in a 5,25, nonostante sia un tribanda, l'uso in 50 mega e in VHF, ma in HF non ho manco l'antenna di attacco, no, non mi interessa. Ma voi sempre a 5,25 andate, Claudio, mi sono sano. Ma da quella è come può essere per noi canale 10, canale 5. Ci sentiamo tutti lì e poi se ci dobbiamo spostare in HF teniamo sempre munito a quella, capito? Ma adesso quando so tempo mi metto con la tendina, lì c'è quella variante in piccolina per le V. Me la voglio mettere perché non si segna di questi sono bassi, cioè che ascolto bassi con quella multibanda, magari ascolto bene altre frequenze, più di quanto mi aspettassi, però sulle V non va tanto bene. Ah, sulle V, vabbè, io ho una X50 che praticamente avevo preso, non mi ricordo dove, ma ce l'hai anche a Torino quelle con le antenne, ti prendi una di quelle, VEU, te la metti sotto il palo della mantova, sotto il palo della direttiva, e hai la possibilità di ascoltare molto molto meglio che ascoltare con altri tipi di antenne, capito? E prima di tutto faccio la prova con quella come si chiama? Quella direttiva che ho, e voglio vedere se per caso riesce a allargarsi anche a prendere le V. Beh, sicuramente sì, se poi la monti a polarizzazione verticale, quella è una bomba. Infatti adesso voglio vedere, vediamo un pochettino, se no c'ho quella piccolina, vediamo, quella con i radialini, credo che sia per le buti, te l'ho fatta vedere, deve fare quella con i radialini piccoli, ho fatto il conto delle misure, sembra un 4 onda per le V. Ui. Che? Andiamo bene, no? Chi è? Avanti, non ti ho riconosciuto, che sto usando un baracchinetto, chi è? Non mi hai riconosciuto, Claudio. Adesso sì, ciao Antu, buonasera. Quando ho detto Iai non ti avevo riconosciuto. Non ti avevo riconosciuto, ciao, buonasera, per aver riascoltato nei due chiacchiere con Roberto qua, facendo due prove con delle vecchie radio d'epoca. E allora, sto bene? Tutto bene, tutto bene. Un po' da farazzo, mi ho già detto, oggi accendo e vediamo un po' come la situazione, poi ho trovato voi. Mi fa piacere, dai, dopo un po' di tempo. Vabbè, dopo un po', ogni tanto bisogna anche farsi sentire, no? C'era Sandro, c'era Gianluca, Giampaolo, eravamo qua sul 12. Avanti Roberto per i saluti al bombo. sentito. Come ascolti con questa radio a tutti? Benissimo, magnificamente bene. Allora vuol dire che sta funzionando. Sono questa pita di avvicinamento, di tanto inizia quando sono segnale troppo furta. Adesso grazie a Dio a te già ti ascolto bene tra, ma dovevo chiuderti tutto la referenza, se no non riuscivo a sentirti con questa, perché troppo arrivavi troppo forte e saturava la radio. Quando uso la KFC, ma così con 4 watt e un baracchino 23 canali già ci sentiamo bene, anche qua hai migliorato moltissimo. Come stavi modulando poco fa eri molto forte, quindi la modulazione rimaneva un pochino quasi compressa, mentre adesso è bella libera, forte. E quello è il problema, capito? Visto che siamo vicini, no? Non significa niente stare lì con tante cose. No, ma poi c'è un ricevitore, sta radio favolosa. È vecchia, sarà del 68, 69, 70, una radio del genere. Ma è nuova, è un base. E va bene, c'è una bellissima ricezione. Ok, allora microfono per Antonio, altri 5 minuti e poi andiamo a cenare. Cosa ha fatto il Cagliari, Antonio? Stava pareggiando, cosa ha fatto? Da uno, tiro Diego Libero. La giornata dei pareggi, ci picchia, vabbè. Il Milan lo stesso stava pareggiando, ma io ho pareggiato ieri, anche se non ha dato il suo rigore, comunque va bene lo stesso. Il Napoli invece ha vinto così e quindi ha 3 punti dalla Juve. Bisogna stare attenti a questi napoletani che aggabanteroni. Avanti Roberto. La Milan ha vinto, 1-0 ha vinto. Il Cagliari ha fatto 1-1 al 90, il Napoli stava pareggiando e poi ha fatto 2-1 Cavani a 5 minuti, 10 minuti dalla fine. E basta, gli altri, tutte quelle importanti hanno perso la Lazio, la Fiorentina e poi Gare. Adesso per l'Inter, vediamo l'Inter cosa fa. Con chi è stasera? Fa con Turino. Vabbè, ma l'Inter e il Milan non si è fatti nulla. Le concorrenti alla Juve sono il Napoli e gli altri che sono sotto il Napoli. Vabbè, ieri è stata una bella partita, ma alla fine, come anda sempre l'arbitro, se ha detto che il rigore non c'era, non c'era, pazienza. Comunque, già non ci tocca niente a noi, sempre gli stessi soldi prendiamo, vabbè, avanti a tu. E scappa, e poi ci sono stati 3 o 4 tentativi di salvo, registro, come si chiama, il suo portiere, avevamo il venimento, il Cosentino, avevamo un ammetto come si chiama, me l'ha parato, me l'ha, è uno di così finiglia, ma era un caso di micidiale, poi era un colpo di testa di Ribeiro e ce l'ha fatta, meno male, almeno non c'è di classifica. Infatti è importante che a 1-1 punteggio riesca a rimettersi in campo la giornata. Ma quando la giornata sono ha preso un palo, una traversa, insomma, pazienza, va bene così, non ci sono problemi, bisogna rispettare gli arbitri in campo, se quelli dicono che è così, va bene, dai, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio delle due chiacchiere. Se coincide ci sentiamo più tardi, altrimenti alle prossime occasioni. Ciao Roberto, grazie del QSO, saluto Porto Torres, chiunque fosse in ascolto, Sandro, Gianluca, Giampaolo e compagni, e a te Antonio, saluto a Babbo e ci sentiamo alle prossime, a te Antonio. Sì, a capo, ciao Cla, vai, ce la risentiamo. Siete sempre qua sul 12. Già un paio di volte che mi capita. Va meglio questo? No, perché c'è da Porto Torres e poi io ero in ascolto, c'era anche Massimiliano, insomma Gigi e stavano parlando con Porto Torres, io ho girato, visto che erano qua, mi sono fermato qua, tu capito, no, non è quello il problema. Ma se ci sia gente a fare due chiacchiere già va bene. No, non problema, ok. A te Robè, buona serata a tutti, buona cena a tutti, buon fine domenica a tutti, ciao ciao. E abbiamo tutto qua, buona carica, dai, ti ho 4 minuti, è troppo sacco anche io. Ok, vai Antonio. Ciao. Falcao Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Buona carica. Ciao, ciao, ciao a tu. Vai Robè. Via. Ma la radio com'è, forte rispetto alla solita mia questa Antu? Bella, mi piace la verità, eh. No, è male, è leggermente più forte questa. Ehi, tu lo sai che è stato utilizzato? No, no, un foglietto di quelli, un foglietto di Deus. Normale, una radio normale, capito? Ma come dopo la normale o amplificato? Un po' normale. Ah, così, infatti rispetto a quello molto più basso, ho fatto le tovaglie forse per il segnale, invece non il microfono più, il mio, come si chiama, amplificazione rispetto a quello di tutta la nostra musica. Vabbè, sto utilizzando una cosa normale. Santiago Novo, ci arrivo con questa radio? Sì, sì, tranquillo. Ma basta, io tutti con quanto sei? 1, 2, 3, prova. Non penso che sia molto alto il segnale. Vabbè, questo baracchino che ha appunto sullo smetto che sei 9, quasi 9, eh? Che calma, normale. Sono 4 watt, insomma, non è che abbia chissà che cosa. E anche questo sarà 5-6 watt, non penso che ne abbia di più. Qua lo smetto ne indica qualcuno di più, però la potenza è quella 5 watt più o meno. Anche così fatte. Ma questo diciamo è una buona emissione di radio, di ricezione è una mezza cagata, però come emissione di radio, come trasmissione va bene, e la radio me l'hanno sempre detta che è buona, però di ricezione non so da niente, prende un po' di rumori, si porta presso un po' di lunghezza, al contrario dell'altro Intec, che adesso volevo provare, però non avevo le batterie, ero efficiente e non c'era l'ultimo di modulazione, era senza batterie, infatti adesso purtroppo magari provo a cambiare le batterie. Sono questo baracchino 40 canali e 2 facce, stazione base, bello grosso, c'è AM, bande laterali, 3 strumentini, l'orologio e l'indicatore dei canali di città. E no, come apparato è bello, sembra un amplificatore di quelli di casa, però è di vecchia generazione. Sono un bel di gestione anche quelli apparecchi. Questo no, questo si porta presso un minimo lunghezza, anzi, probabilmente c'è qualche componente che vuole riallineato, qualche trimerino da sistemare, però ne avevo niente a vedere con un baracchino di nuova generazione, no, c'è un Intec, il Multicom, lì c'è una bomba, a livello di 440 come ricezione, però è brutto di emissione. Caramba. No, vabbè, la base che ci ho messo, aspetta un secondo, te lo faccio sentire, cambio la batteria e te lo faccio sentire un attimino là. Ma aspetta un attimo, vado a vedere una cosa pure io. Hola, c'è qualcuno su 12? Avanti. Mi senti con questo? Che ti sento, Robert? Sei più basso però. Ma più basso di segnale sicuramente. Modulazione. Di modulazione, vabbè, un altro microfono questo. È brutta la radio. No, non è male. Questo per dire, sto usando un Intec Buzzlet, te l'ho detto, una cagata come radio, rispetto all'altro. E aspetta, mi chiede tutto sollevato, no, qua non posso salire più di questo. Ah, io dico che non è male, non è da buttare via. L'altro microfono, però adesso devo fare un giro di fili per farlo passare, dai, lasciamo fare questo qui. Certo non è il tunnel, però questo c'è una ricezione, questo apparato che è una bomba. Tira fuori esattamente 4 watt spaccati, non di più. Ciao, ma e io come, come sono lì? Mi senti bene? Sì, sì, il segnale, vabbè, questo è preciso, questo è Santiago 9, ti l'ho spaccato con questo baracchino e la radio chiara 5. Non è fortissima, però va bene. Calma, no, già vanno bene questi apparecchietti, ma la sorte. che mi accontento. Tanto sto usando questo, lo sto usando, per non togliere l'altro. Io che mi accontento lo stesso, dai. Ok, l'unica cosa adesso questo microfono è andato su punta, devo farlo cambiare un pochettino, pulire l'interruttore, vediamo se si sblocca, eh? Sì, si sblocca. Già me ne sono accorto già. Perché è troppo tempo fermo, eh. E poi devo staccare la batteria, perché mi sembra che l'altra volta me ne aveva buttata a terra la batteria, probabilmente continua a alimentare l'apparato. Sicuramente. Così mi sto portando appresso, a parte questo rumore della stufa di quelle col gas, come che si chiama, non a gas, a libro. No, non sento nessun fruscio, io sento solo te. Ma la radio è chiara, o come fa Paperina, come la senti? Sento chiaro, non la sento né Paperina, niente. Sento chiaro, normale, è una radio normale, senza grandi amplificazioni, grandi soldi, sento bene, poi. Vabbè, l'altra è prima, era una salva minetta, vabbè. Quella è più forte, molto più forte. E quello posso sollevarlo ancora, vabbè, sono due microfoni diversi. Qua il tunnel non l'ho mai messo perché non volevo fare le connessioni, purtroppo questo è a 6 connessioni, dovrei farmi una trattore ma non una giugana. E lo lascio stare così. C'ho un M600 di microfono, però l'ho messo su un'altra radio. E c'è la gira gira, te la posso sentire in edicola lì. Aspetta un secondino, tanto quella già è facile attaccare. Non è male, non è male, va bene anche questa, meglio di nulla è. Per come ho iniziato già ce n'è per i pulci, però questa è la mia preferita come tipo di radio, la più bella di tutti, questa non gli manca niente, c'ha tutte le cose possibili e immaginabili ed è una radio perfettamente omologata, stazione base, c'ha il frequenzimetro, c'ha tutte le bande possibili e immaginabili, perché entri nel menu e poi senza fare nessuna modifica entri sul menu e ti ci sono tutte le altre bande, c'ha il modulometro, il wattmetro, il rosmetro e il wattmetro, tutto l'ho già detto, il wattmetro, c'ha poi AM, FM, bande laterali, il cosa cazzo c'è, vabbè, mic gain, RF gain, il clarifer regolabile, doppio clarifer c'è tra l'altro, e poi c'ha per ascoltare due canali in contemporanea, la scansione dei canali, c'ha tutto, non mi manca manco una virgola a questo baracchino. È bello usare anche quelle, già basta per parlare a voi, per voi vogliamo spingere, cioè per fare che creatività bastano quelle secondo me, infatti io per le volte manco di attacco queste due, no, manco di attacco io di attrarre. E questo per me è abbastanza sufficiente, anche se non ho antenna io, però per me mi basta. Cappa. Ma molto bassa, dimmi se è bassa, non parliamo di cosa, di qualità, ma è bassina come radio? Normale, vabbè, normale. Come che non stia amplificando? Dopo basta. Come che non sto amplificando? Aspetta, ci sono i mic gain. Hola, hola, hola, hola. Sto aumentando leggermente. Sto guardando il modulometro, però sembra che spinga meno del normale, se mi avvicino un pochettino, l'altra la spinge di più. Beh, l'altra è l'altra, non si perdere. Questa già va bene però. Ok, aspetta un secondino, ti faccio sentire un altro baracchino sempre stazione base con un altro microfono, vedere se è meglio di questa. Ma dammi 5 minuti, roba. Dimmi. Dammi 5 minuti che va a fare un ancora, esatto, tu l'attacchi. Però non più di 5 minuti perché me ne devo andare anche io, dai, così ti faccio sentire. Ma dai, vado, faccio questa cosa, risalgo e sono qua. Chi è avanti? Sì, dimmi tutto. Sì, fuori frequenza, Robert. Sì, ciao Gianni. Sto facendo male di radio, roba, sei fuori frequenza, sei saturo, buh. Guarda se sei in FM, roba. In FM sì, anche se non sono mai accorto, infatti questa è una combattita, come non ce l'ho questa malattia? Vabbè, adesso divinamente davvero, questa è una gargaglia, questo è un M600 il microfono? Sì, è un Inter che è stato nel base, questo un 40 canne c'è un bebè davvero? No, pensavo che fosse una porcheria. Questo c'è anche l'eco, guarda un po', senti un po', ora, ora. Cosa dice a lei? Certo. Si sente? Che si sente, Robè? Oh, io chiudo, Robè, ce la risentiamo, ciao. Ciao, si sente la roba. Adesso c'è troppo eco, Robè, abbassa. Oh, io non la rimetto. Abbassalo tutto l'eco, poi però sul lì, vi dico quando va bene. Prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Così va bene, lascialo così. C'è dietro, c'è il coso, la velocità della... E ti è preso perché ha un nome questa roba. Cioè, se non è una sola, sicuramente distrugge tutto qua. Perché sei... pare troppo vicino. Pare troppo vicino, parla un po' più lontano e si sente meglio, se no quasi strano. Ah, non mi piace, dai. Comunque la radio non è cattiva, già. No, non è cattiva, un po' cupa rimane, ma è forte, dai. Oh, anche qua sono a due, posso salire, sono meno della metà. Adesso va bene, che cosa fa? Scusa, mi sono rimasto in posto che possono lavorare un pochettino, così la distanza normale, dai. Questa è la distanza giusta e la regolazione giusta per me. Poi chiedi a cosa, ma a Tulipano, a vedere come ti ascolta. Avanti, oh Gianluca. Con l'abbinamento di un vecchio patch stazione base, mentre quell'altro apparato era un Intec base con un M600, che è, diciamo, un microfono un po' critico, deve esserci un po' attento. Che praticamente sta facendo la differenza, Roberto. Il primo che ho usato aveva più bassi, l'altro c'ha più acuti. Questo c'ha più acuti, dice. Questa è la mia preferenza, il conditore. Vabbè, diciamo, questo è un abbinamento che abbiamo fatto tempo fa, abbiamo provato tanti microfoni su questa radio, era uno di quelli che andava meglio, almeno dei microfoni di mia proprietà. No, per niente, non se ne sente amplificazione. Ehi, appena appena sì. No, la macchina non so se questa carica carica al massimo, diciamo, che è proprio da molto, la devo ricaricare questa macchina, per farci questa cosa della batteria a carica. Infatti, come ho messo l'eco appena di amplificazione gliela l'ha capito, ma prima proprio si sentiva nulla. E questa già prova 1, 2, 3 prova radio e questa è chiara, ma è normale? No, non è normale. Prova a fare un passaggio lungo. Ora 1, 2, 3 prova canale 12, 27 e 105 la frequenza. Per me è chiarissima, ma questa grossa amplificazione non si sente, è chiarissima come in radio e niente, sarà l'EV più 5 sicuramente. No, no, no, non la sai cosa, lasciamo fare. Cos'è questo micro? Come è, dai, lo conservo? Prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, aumentato il radio? Capo. E se ne chiude la metà interna? Ma c'è comunque sia la batteria che si scarica, perché mi sembra che l'ho controllata, mi sembra che il cavallo è 7 volte. Allora buttala via perché non serve più. No, lo devo ricaricare perché sono ricaricabili già. Ah, non è appento, che ogni volta si accarica la batteria. Ma ne ho 5 o 6, capito? No, non è che rimanga più, capito? Ne prendo l'altro che c'ho dei microfoni. Cosa dici? 1, 2, 3, prova radio, 27, 105, canale 12. Chiara, la radio è chiarissima. È l'amplificazione? No, non ce n'è. Non c'è amplificazione. Tu la senti, no. Gianlu? No, la c'è ragione, è molto più bassa. Ripeto, quel passaggio che fa con il microfono, con la posizione, con questi anni, e che era questo che ti scusi. Allora mi sa che qua c'è il problema di Mike, adesso come mi ascoltate? Qualcuno ha sovramodulato, avanti chi vuole entrare. sentito uno quando stavi parlando, Gianluca. Avanti, chi vuole entrare su 12? No, scusa, è una battuta mia, Robè. Ho detto, da qui se poco sei rompio. No, stavo provando, no, siccome sta strada sta andando male questo Mike, questo è un 60 comunque tra parentesi, se qualcuno se ne è accorto. E mi hanno fatto delle osservazioni, probabilmente non è al 100% questo Mike. In questo momento sta andando bene, parlo di quelle a lunga distanza. Ma io ho detto che va bene. Oh mio, adesso sto facendo cosa qua, sto andando con questa battutina, perché io avevo capito subito che era il tipo di radio stavi usando. È confondibile. Vabbè dai, continuate dai, ho fatto solo un intervento così. Sto facendo cosa, dai. Ok, vabbè dai, io lo interrompo comunque, dai, devo far cosa, saluto Gianluca, grazie dei controlli di DM a Gianni per lui la stessa cosa, buon proseguimento di QSO, QRT da parte mia, ci risentiremo alle prossime, ciao ciao, aspetto il finalino e poi vediamo, ciao ciao. Sì, ciao Roba, ci sentiamo, se l'MC60 non ha niente dell'MC60, questo microfono, magari ha qualcosa, controlla dietro, se a 50 o a quanto è, KK, avanti Gianluca. Ciao Roba, non so che stava utilizzando questo giorno per radio. Tu Gianluigi forte e anche un bel avanti chi vuole entrare. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao Pompo. Ciao a tutti. Cava cava. Non ho capito Gianlu, dimmi. Sistemando una cosa, aspettate un secondo. Ok, e quindi Gianni siamo qua, siamo, aspetta, mi hanno detto che stanno l'hanno appoggiato, l'ho avuto come la tua, però 650 di cilindrata 2000. Sì, ma di che anno è? Già, considera che 650 secondo me sono gli ultimi, degli ultimi motorizzazioni che ha fatto di quella moto lì, perché se ricordo che hanno fatto fino a 400 che l'ha fatta 350. No, non è così, non è così, perché ce l'avevo anche fatto di Natalino ed era, e aveva un po' di anni, 650. C'è l'Executive, ci sono diversi modelli. Ah, e tu cosa dici che come cosa potrà essere allora con i 50, anche se nella, diciamo, nella stagione delle foto, diciamo così, la prima serie come qualcosa che potrebbe avere? Non lo so, te lo dirà lui che anno è, il mio è del 2007, è del 2007, è l'ultimo modello che è uscito. D'accordo con te, ma che tu sappia, visto che ce l'hai uguale, c'è la moto lì, no? E quindi le conosci. Secondo te, nella stagione delle foto, il 2050, la prima matricolazione, la prima motorizzazione, scusami, quando l'hanno fatta? Non lo so, perché del 650 non è che mi sia mai interessato, poi c'era il fratello di Natalino che poi l'ha venduto anche di meno, perché aveva già la sua età, capito? Era nuovo, mi era tenuto bene tutto quanto, e lui l'aveva preso a seconda mano, la sua volta poi l'ha venduto. Infatti se avessi avuto i soldi me l'avrei preso io, perché l'ha tenuto bene, era nuovo nuovo. Poi c'è l'occasione, Gianluca, se magari è nuovo, il 2007 trova qualche turista, è buono, è un affare. c'è l'occasione, uno che ha bisogno di soldi e cose se lo prende molto meno di quello che costa. Ma sono che così succede, ci sono quei casi che succedono quelle cose lì. Me ne sono arrivate di offerte tutte a fare scambio ma non è accettato. No, se uno ha l'intenzione di prenderla, perché la se la vuole fare, e la vuole prendere, quindi non è che lo so fare pure con te, assolutamente no. Sì, sì, la voglio vedere perché sono tutta dolore alle ossa e morto non ne posso più pigliare, se no non avrei tempo. Certo, certo. Capisco, e niente. Ma adesso se uno vuole comprare qualcosa c'è la possibilità. Questi secondo me sono i periodi che si può comprare, ecco. Ma dopo quando viene la stagione, qualcuno si deve vedere qualche cosa di più, capito? E vabbè. No problem, io se riesco a vedere lui se non me la tengo, non c'è problema. Vuol dire che la uso solo d'estate, quando posso usarla e buco. Quello è una cosa da fare. Questo da fare già. Quando si ma almeno d'estate, le vecchie non sanno ferma la macchina, non so quanto consuma per la moto lui. Consuma di più la moto della macchina, perché la mia va a gas, quindi consuma molto meno della moto. Ma tu lo sai che attaccato in auto? No. È una cosa buona quella. È una cosa buona che quando l'asta mi dico che mi si l'asta, ma tu non mi sei, non mi sai che io non mi chiedi al governo, gatto, è imprevedibile. Come tu vedi che si muove poco poco, gatto, una pendenza, una cosa. Vanno di bagnava, poi gli si mangia la diretta elettronica. Allora dire tu cosa cazzo non ci ha più, perché se tu un capo di mani diretto. Ma cosa si deve fare il tuo gatto? La sua rete magari ti convinci, ti... come ti dici? Dice, vabbè, me la cavo, quando io usiamo la macchina, me la pidio al gatto, me la pidio. E con un aumento di un uomo di piccolo, di chi si apprende, o di chi si impianti, di chi si installa, e via dicendo. Come si vede che poco poco euro, tanto è salutata, ah io pone a 2 euro, fa di che, a 1 euro, e lo pone fa di che, a livello della benzina. E vabbè, ma nella peggiore delle ipotesi costa sempre meno. Sì, nella peggiore delle ipotesi, però già, se rimane così sì, perché costa più della metà, meno della metà o comunque sia. Ma se vedi che ci sia un aumento, un incremento, una crescita, di una vendita o di installazione di impianti di gas su strutture, tanto sarà. E lo Stato vede che cose, più lui rimane messo. Guarda che lo Stato ha dato gli incentivi. Ha dato gli incentivi per fare gli impianti a gas. E io infatti ne avevo approfittato in quel periodo, infatti ho pagato meno di quello che si paga adesso. Avevo una parte di incentivo dello Stato e poi praticamente il resto l'ho aggiunto. E infatti lo Stato ha dato l'incentivo, ha fatto lo pure, ma non puoi tenere qui a quando ti ho messo il gatto. Vabbè. Intanto qua siamo in mezzo a questa bagna, continuiamo a infundirci e basta, cosa devi fare? Più che far scoppiare la guerra civile se non ci va bene la cosa, e non ci va bene, perché non ci va bene, ma sembriamo che siamo masochisti, siamo biglietti di tutto questo che ci date. Infatti, siamo su così e stiamo ingoiando senza dire nulla, certo, così. È proprio così. Adesso ho visto l'altra volta, stavo sfogliando così curiosando, sai, c'era una rivista lì al lavoro di macchine con lussi e stavo guardando con le motorizzazioni, no? A volte quasi così qui c'è più tipi di macchina che stanno facendo con due o tre motorizzazioni, di una diesel e vabbè, quelle che sono a benzina li mettono anche il motore GPL. La macchina mia va sia a benzina che a GPL, va tutti e due. Io lo so, è logico. Se non ve lo dite a gasolio lo subito a va. Lo spostare proprio la macchina a gasolio, a GPL. No, assolutamente. Poi non avevano fatto anche la moto a GPL. Prima di giù. No, vabbè. Risparmi un bel perché la metà la risparmi. Ma è come prestazioni o comunque sia come durata, come chilometraggio, cosa riesci a fare tu con un litro di GPL? No, io ti faccio l'esempio. Allora, prima di aumentare la benzina io mettevo alla settimana 60 euro di benzina. Adesso di gas ne metto 32 euro quando è proprio a secco, 32-33 euro e mi dura tutta la settimana. Fa 420 km con praticamente 32 euro. È un bel mese. Beh, per chi viaggia conviene. Prestazioni, poi come velocità, io a gas sono andato sino a 160, sono andato tranquillamente. Benissimo. Che faccia, cosa ti posso dire, andare a 180, benzina. Ma che cosa sono? Sono pochi chilometri in più che fa. No, l'ho tirata e sono arrivato sino a 160, non la urbi. Va tutto bene, avanti da solo si è finito. Risparmio c'è già lui, prima si pagava anche il bollo per il gas, te lo ricordo. Già lo ho detto, non lo fate insieme. Ho detto, prima si pagava anche il bollo per il gas, ma è sempre il bollo anche. Sì. Cioè, si può andare alla casa della radio, muro, si pagava l'uro, va alla radio. Ma vai, a fa un culo, vai, tra i miei due. Sempre pagato, te dico la verità. E che fa con pagare? Magari non è il buco, allora poi chissà per pagare, lo dico. Lo con radio. Non lo con radio, lui. Ma tu era 12 gramacchi all'anno? Sì, sì, 12 mi pare che fosse. E non vorrei che me ne metta ancora io. Non vorrei che me ne metta ancora, porca miseria, guarda un poco. Sì. Che bella di cazzare mangiate i signori ragazza, che cosa tua mania da vanno? Cosa ti sono fermi in vintata, non ti sono vintendi? E poi noi siamo matti che facciamo il gioco loro, capito? Bisognerebbe ribellarsi tutti insieme, però non uno solo, perché se no uno viene penalizzato. Tutti quanti in pari bisogna essere d'accordo, non paga più la tassa l'ICI, non paga l'ICI, non paga l'ICI. Così che fermo gribare la mia età, si ribiano. Non ci vediamo da quello. Secondo me lui che era stato rappresentante, cazzo, che aveva detto, guarda, no, che bisogna fare un sì, e tutti cazzo fare da voi, e non fare di nessuno. Sì. L'organizzazione ci vorrebbe, è un po' di unione, visto che tutti si lamentano, però nessuno fa nulla per migliorare. Loro non fanno nulla per migliorare, ma peggiorano la situazione, si aumentano stipendi, guardi di cazzate, rubano, fanno, e nessuno dice nulla. Visto a Bussi, cosa ha fatto? Si ha fatto un gas, chi si è guidato, ha fatto un cognato, ha dato di là un figliolo. Sono tutti uccisi. Allora, sembrava un cane bulldog, sempre brontolando, Maria chiede dove va chissà cosa e dopo gli furava più di là. Che bravo, esatto, no? Mi cava anche tu, lo so uccisi. Chi ti puoi fidare? C'è marciume da tutte le parti, Gianluca, c'è marciume in tutti i posti, anche nell'arma, ci sono sempre i corrotti, mica ti bevidava, vorrebbe fatto già noi, buttate tutto a terra, il governo che c'è, è messo la gente giovane, che si accontenta di uno stipendio normale, gente che non c'ha lavoro, però che c'ha idee, che sa fare, ecco, che si accontenta di uno stipendio normale e che va avanti e cerca di fare è il meglio per l'Italia, ecco che cosa ci serve, no? Non gente che ruba e basta e fa andare tutta la carta a sfascio. E lui, ma sto uscendo. Ah, pensavo che se non mi rispondessi, dove si eseguisce? Capito, gente che sappia fare, che sa, gente che magari adesso è senza lavoro, però che c'è una laurea, una cosa, e si sappia muovere, e che sia conto di uno stipendio normale, non dico normale da 1.000.000 anche 2.000 euro, però che faccia il suo lavoro onestamente, senza... Se va, ce n'è poca di questa gente, come se c'è a fare mezz'ora di acqua. Tu vedi già. Allora, secondo me, il turismo è. Se mi dicendo, su quella la stessa uno, chi dice la stessa ne va a subire di stasera da dare un passo al giro, di nuovo era tutto un spettacolo. Simoranini? Non si era. No, mi sono Simoranini, era passato sabato passato. Una giornata che avevano fatto noi fare anche passoni, no? Il 14 di dicembre era. Avevano fatto vedere le ferite in questi giorni e mi hanno fatto vedere sia il giorno prima che il giorno dopo. Su Antenna 1, ma io su Antenna 1 sinceramente non oddio. Io non so che lo guardavo sempre il telegiornale, adesso non ne stanno più dando il telegiornale, non comprendo una cosa. Ma che ma esiste, abbiamo ancora, e mi ha detto sì, sì, Antenna 1. La prossima retribuzione che mi ha detto una cosa, l'ho preso anche. L'hanno battuto a me, l'hanno fatto vedere. Ma c'è Antenna 1, ma il telegiornale non lo sta più dando, boh. E l'altra cosa che non prendo né Rai 1, né Rai 2, né Rai 3, a casa. Allora, se tu prendi sull'antenna, c'è cioè, gli altri che si vede bene? Ma con un televisore, con quello che c'è in sala, li piglio. Con quello che c'è dentro, in cucina no, non ho compreso una cosa. Sono così... Questi recetti che si fanno, forse anche qua se andiamo su e giù, se abbiamo i televisori, ma ancora adesso già si vede bene tutto quanto. Però questi canali, sinceramente, me lo budi che si piazza, si fa bene uno, vedi, Violina dice già vedo tutti. Mi ha fatto uscire un po' di canali nuovi, usciti, hanno fatto un po' di canali nuovi. C'è Tele Sassari adesso. Sì, ma non ho fatto molti canali anche da Rai, la Rai è la prima Rai 1, Rai 2, Rai 3. Rai 4, Rai Premio, Rai Sport, Rai Cartoon, insomma, non vedo roba. E infatti, chi ce lo fa fare mettere Sky, che hanno proprio 50.000 canali da digitale? Non si vede che è. Infatti. Ma io guardo sempre le solite cose, io guardo Max, Focus, poi guardo Cielo, e Canale 5, poi guardo Videolina per il telegiornale, boh. Di Max, e di Max, Iris, Cielo anche, sono delle belle cose, fanno vedere. E Cielo te l'ho detto, Cielo, di Max, Focus. E cosa? Canale 5 e Videolina per il telegiornale, buf. Magari ce ne sono altri, quindi, ma non li conosciamo. E lì c'era me quello di Avventura su di me. E che cosa? Calava tra la Russia e le montagne della Russia e boh, non so che cosa. Comunque si è calato le montagne innervate, si è calato con questa slitta l'elicottero, l'elicottero a calarsi non ce la faceva. È andato fino a un certo livello, poi lui è sceso con la slitta già dall'elicottero, è saltato e è andato in mezzo alla neve. Solo che poi ha trovato la neve un bel alta e ha dovuto mollare la motoslitta. È dovuto andare a piedi e via, da lì l'avventura. E adesso devo far vedere anche come si fanno le magie, eccetera, eccetera, tutti i trucchi. Non so quando lo debbano fare, però c'è la pubblicità. Ho visto un bel di cose che magari manco mi immaginavo come si fanno. Ho visto la vasca di idromassaggio, come si fa? Tutto. E quando su Focus facevano vedere, tagliavano la roba in due per vedere come l'ha fatta dentro. E l'ho visto anche io quello lì, che c'ha gli ammortizzatori per far sì che non si muova il disco quando lo muove. E infatti la domanda era come mai non salta il disco quando tu muovi giù box. C'ha questi ammortizzatori che praticamente ammortizzano il corpo e non fanno saltare il disco. e la macchina dei pompieri, cose interessanti. Ti insegnano tante cose, dai. Insegnano molte cose che magari tu non manco ti immagini e le vedi lì. Per dire, stasera ho visto come stavano montando un campo di football in America e calavano i ferri così, perché avevano fatto le palcature in ferro, eccetera eccetera, lo praticamente lo calavano dall'alto con l'elicottero, c'erano due uomini in bilico sempre agli altri ferri che avevano piazzato, in bilico casa a 30 metri di altezza, 35 metri, che dovevano orientare quando l'elicottero calava, non l'elicottero, la gru era, una di quelle gru enormi, quando calava la cosa prefabbricata, loro dovevano praticamente posizionare la roba sempre in bilico su quest'asse di ferro, posizionarla col coso che magari andava in capo, gli dava un colpo e gli rampava giosso, li dovevano posizionare e infilare subito questi bulloni cazzi a vittare di modo che bloccava. Dove si vede Gianluca come ti travagliava, la parte del televisore Gianluca.